2024 di Enrico Pagliarini. Alle 15.32 minuti inizia una nuova puntata di 2024, come le tecnologie ci cambiano la vita. Ringrazio Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini. Se volete comunicare con noi durante la nostra trasmissione ci sono varie modalità, vi ricordo la principale, il nostro numero verde per parlare soprattutto di commercio elettronico, di e-commerce, nella seconda parte 800 24 00 24, per le vostre domande potete già prenotarvi in questo momento. Se volete mandarci un sms 349 238 6666, oppure la pagina Facebook e anche le email che cercheremo di leggere durante la trasmissione. Ricorderete che qualche settimana fa, in novembre, abbiamo lanciato una idea di cui sta parlando nelle ultime settimane AssoProvider, che nell'ambito di una discussione che sapete prosegue da tanti anni sulla costruzione di una rete in fibra ottica nazionale, il cosiddetto Next Generation Network, che prima o poi dovrà essere fatto, si dovrà cominciare a costruire. Dunque, allora, questa AssoProvider, con questa idea che non è solo di AssoProvider, ma diciamo loro la stanno rilanciando, propone di coinvolgere la popolazione. Allora, visto che i soldi per nuovi investimenti sono pochi, l'ultima parte della rete, il cosiddetto ultimo miglio, potrebbero pagarlo i cittadini, che diventerebbero così proprietari di un pezzo della rete. Di quel pezzo potremmo dire che garantisce l'accesso alla rete internet principale. Allora, molti studi internazionali calcolano in circa 500 euro in media il costo per allacciare un'abitazione. Poi naturalmente dove ci sono grandi palazzi il costo forse è più basso, dove le case sono più rarefatte e più piccole il costo forse un po' più elevato. Comunque la domanda a questo punto è: sareste disposti ad investire circa 500 euro per diventare proprietari del cavo che vi collega ad internet? Abbiamo lanciato un sondaggio il 24 novembre, hanno risposto poco più di 2000 persone e il 91% ha detto sì, siamo disponibili, e appena il 9% ha detto no. Io francamente sarei disponibile. Naturalmente questo porterebbe molti vantaggi, ad esempio la rinegoziazione di un canone che dovrebbe e dovrà essere più basso in presenza di un acquisto di una parte della rete internet. Per tutti i dettagli vi rimando a quell'intervista che abbiamo realizzato il 24 di novembre, è disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Naturalmente riparleremo di Next Generation Network, di banda larga, di fibra ottica. Una cosa interessante è che di fibra ottica ce n'è già moltissima in giro, soprattutto nelle città. Forse manca l'utilizzo della fibra ottica, non viene in molti casi messa a disposizione di aziende e cittadini. Di quanto sia importante la costruzione di una nuova rete, soprattutto i servizi da fare girare su questa nuova rete, sembra che se ne stiano accorgendo molto anche i partiti. Pensate che questa settimana alcuni deputati di Italia dei Valori, UDC e Future Libertà hanno presentato 3 diverse mozioni con cui chiedono che si dia un impulso alla cosiddetta agenda digitale per l'Italia, il che vuol dire varie azioni che convergono verso la cosiddetta economia digitale che, come ormai ci dicono numerosi studi internazionali, in molti paesi può dare un contributo eccezionale alla crescita del paese. Sarebbe anche una crescita più moderna, per certi versi anche più ecologica. Adesso parliamo di un nuovo motore di ricerca. Lunedì andrà online Volunia, un nuovo motore di ricerca ideato da Massimo Marchiori, che è un matematico che di fatto ha ispirato Google e ha ideato la prima versione dell'algoritmo che sta alla base del motore di ricerca oggi più utilizzato. Marchiori studia e insegna all'Università di Padova, dove lunedì alle 12 in streaming, quindi in diretta via web, illustrerà le novità di Volunia, quindi con una sorta di conferenza stampa aperta a tutto il popolo della rete. Un progetto sul quale un team italiano lavora da qualche anno e che è ancora in buona parte top secret. Sì, sarà una nuova esperienza, è un motore di ricerca che non è anche un motore, nel senso che offre una prospettiva utente totalmente diversa. Per cui l'innovazione vera non sarà il chiedere una domanda e avere 10 risposte come ora, per cui magari le 10 risposte più o meno in maniera migliore o peggiore rispetto a quello che offrono gli altri motori, sarà qualcosa di integrato che dà veramente possibilità che finora non si sono mai viste nel web. Dicevamo che il progetto è italiano, italiano è anche l'investimento, questa è una cosa importante, lodevole, perché parliamo di un sacco di soldi. Mariano Pireddu è un imprenditore che ha una lunga esperienza nel mondo della tecnologia e ha finanziato Volunia. Ad oggi l'investimento è stato di circa 2 milioni di euro. Il team sia di ricerca che di manutenzione dell'infrastruttura è interamente italiano, così come italiani sono i nostri partner tecnologici. Queste interviste sono state realizzate da Antonio Larizza, che domani ci dirà qualche cosa in più su questo nuovo motore di ricerca su Nova, l'inserto di tecnologia del Sole 24 Ore. Lunedì parleremo di Volunia più nel dettaglio, quindi diremo qualche cosa in più, anche su Radio 24, alla fine del GR delle 7 e nel GR delle 13. Per quelli più curiosi, ricordiamo che Volunia inizierà a funzionare da lunedì per solo una parte di utenti che si sono registrati, quindi non per tutti. Potete però andare sul sito internet Volunia, per registrarvi. Che cosa si può dire oggi su questo progetto? Di sicuro che non può fare concorrenza a Google o a Bing sullo stesso piano, perché già partendo da questo investimento che è importante, ingente, perché parliamo di 2 milioni di euro, ma se pensiamo ai motori di ricerca stiamo parlando di un nulla, quindi non si possono costruire o affittare data center così potenti come quelli che alimentano i motori di ricerca oggi disponibili sul mercato. Allora bisogna trovare un escamotage, diciamo così, una novità, un modo diverso. E un indizio ce lo può dare il sottotitolo con cui è presentato Volunia, Seek and Meet, cioè che dice ricerca e incontrati. Sicuramente la parte social di incontro di altri utenti della rete è alla base di questo progetto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di Audi Web, dei dati di navigazione sulla rete internet. Ci domandiamo quanti sono gli italiani che navigano in internet e quanti lo hanno fatto nel corso del 2011, quindi dati freschi e aggiornati proposti da Audi Web. Enrico Gasperini è il presidente di Audi Web. Ci sono quasi 36 milioni di italiani tra gli 11 e i 74 anni che hanno l'accesso, quindi che in qualche modo da casa o dall'ufficio possono accedere alla rete. Di questi 36 milioni abbiamo mediamente nel mese un accesso di 26 milioni e mezzo di italiani, quindi ci sono 26 milioni e mezzo di italiani che tutti i mesi usano in qualche modo la rete, che è un bel risultato perché è quasi l'11% in più rispetto all'anno precedente. Quindi potremmo dire che di fatto quelli che utilizzano veramente internet sono circa 26 milioni. Sì, esatto. Sono di più se guardiamo a tutte le occasioni, perché insomma, ci possono essere delle persone che magari una volta al mese fanno qualche cosa. Se poi vogliamo analizzare il dato ancora più nel dettaglio, gli utilizzatori massicci, quelli che magari tutti i giorni si leggono le notizie in rete, fanno acquisti online, utilizzano servizi online, quanti sono? Nel giorno medio, questa è la media sull'anno, abbiamo quasi 13 milioni di italiani che utilizzano la rete. Quindi prendendo un giorno medio qualsiasi, quindi compresi i weekend, i 365 giorni dell'anno, quasi 13 milioni di italiani usano la rete. Anche in questo caso sono circa il 10% in più rispetto all'anno precedente. A questo punto una domanda sull'andamento, sul trend, guardando anche il confronto con altri paesi europei. Possiamo essere soddisfatti, cioè rispetto alla popolazione totale, sono molti o sono pochi ancora gli italiani che utilizzano la rete? Direi che possiamo essere soddisfatti del trend di crescita che rimane costante anno su anno. Non siamo ancora soddisfatti rispetto alla penetrazione dei paesi europei, che comunque è maggiore. Noi abbiamo poco più della metà degli italiani che mese su mese stanno sulla rete, la usano per qualsiasi tipo di funzione, insomma dal commercio elettronico fino alla semplice navigazione. Altri paesi europei, Francia e Germania, hanno una penetrazione decisamente superiore. Quello che ancora ci divide da loro non è tanto l'utilizzo della rete sulle fasce più giovani della popolazione, ma soprattutto dai 55 anni in su. Colpa della popolazione o colpa anche, come dicono alcuni, di un'offerta online che forse dovrebbe migliorare? Qua parlo proprio del panorama internet in generale. È un tema molto complesso, in parte riguarda l'accesso, perché l'accesso in larga banda più diffuso, quindi il superamento del digital divide fisico, sicuramente aumenterebbe le opportunità di utilizzo, farebbe avvicinare ulteriori parti della popolazione alla rete. Pensiamo ad esempio all'utilizzo della rete dell'istruzione, che è ancora molto bassa, quindi nelle scuole, quindi sul tema dell'educazione, o semplicemente ai servizi pubblici. Negli altri paesi la gran parte dei servizi di aziende private o pubbliche viene garantito quasi esclusivamente attraverso la rete, per motivi di efficienza, di risparmio, eccetera. E quindi un aumento dell'offerta di servizi sulla rete di qualsiasi natura sicuramente farebbe portare sulla rete un maggior numero di persone. L'insieme di questi fattori, insieme a fattori culturali, possono in qualche modo spiegare questo gap che ancora esiste fra noi e il resto degli europei. Aggiungo che sul lato positivo, siccome il nostro paese è un paese di grandi utilizzatori di cellulari, una così grande crescita del parco dei computer, dei telefonini smartphone, quindi di cellulari che sono dotati della possibilità di accesso e navigazione alla rete, sicuramente porterà, a mio avviso, un grande aumento ancora più veloce della popolazione digitale. Penso che la mia considerazione deriva anche proprio dal vero amore che la nostra, che l'Italia e gli italiani hanno sempre dimostrato nei confronti di questo aggeggio, di questi aggeggi. Quindi sicuramente i telefonini saranno un modo per avvicinare ulteriormente tutti alla rete, quindi anche la parte più matura, la fascia più matura, che è quella più penalizzata nel digital divide. Era la voce di Enrico Gasperini, che è presidente di AudiWeb. AudiWeb è la società che in Italia fa statistiche sulla rete, quindi mese dopo mese ci comunica quanti sono i navigatori della rete. Lo fa su base statistica. È vero che il web è uno strumento molto misurabile, ma è talmente vasto e così complesso e variegato che anche in questo caso vanno utilizzati i campioni e va utilizzata la statistica. Comunque la cosa interessante è il dato che ci dice che ogni giorno ci sono circa 13 milioni di italiani che sono collegati alla rete internet, e questo è un dato importante che va tenuto in mente. E se guardiamo al mese, quindi alle persone che ogni tanto si collegano ad internet, siamo circa poco più di 26 milioni. Certo, questa è una percentuale ancora piuttosto limitata della popolazione, se pensiamo che almeno per analizzare la rete internet viene utilizzato un campione base di 54 milioni e 700 mila persone, perché naturalmente i bambini non vengono considerati. Popolazione che va dagli 11 anni ai 74 anni, quindi non tutta la popolazione italiana, però siamo grosso modo attorno alla metà dei cittadini che si collegano alla rete internet in modo piuttosto continuativo. Adesso ci fermiamo per un minuto, vi ricordo che nella seconda parte di 2024, dopo le notizie del giornale radio delle 16, parleremo di commercio elettronico. Sicuramente una delle rivoluzioni della rete internet è stata proprio la possibilità di comprare in modo molto facile a distanza, grazie appunto all'e-commerce. Ma ci sono negli ultimi anni, ma direi anche mesi, delle novità molto interessanti. Allora faremo un po' il punto sulla situazione in Italia con alcuni ospiti che tra poco arriveranno nel nostro studio, e vi racconteremo anche quali sono le novità. Per intervenire, per parlare con noi di commercio elettronico, vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. A tra poco. 2024. Prosegue questa puntata di 2024, non abbiamo ancora parlato di Facebook, che forse alcuni potranno definire la notizia della settimana, anche se è stata ampiamente anticipata la scorsa settimana. Facebook pochi giorni fa, mercoledì, alla chiusura della borsa, ha presentato alla SEC, che è l'autorità che controlla il mercato, come la Consob italiana, alla SEC americana, la documentazione per essere quotata alla borsa di New York, con un simbolo al quale ci dovremo abituare, che sarà FB a partire da maggio-giugno, se tutto andrà per il verso giusto. Mi sembra che la presentazione, quindi la presentazione di questi documenti e l'arrivo di Facebook sulla borsa, rappresenti sicuramente un punto di svolta per la rete, per come è cambiata la rete negli ultimi tempi, e mi pare che la definizione più interessante che ho letto in questi giorni è che per la prima volta viene dato un valore che alcuni dicono che sia addirittura esagerato, ma questo poi ognuno farà le proprie valutazioni su questo. Però è interessante che molti definiscano che per la prima dicano che per la prima volta si dà un valore alle relazioni online, scherzando. Tra l'altro, il New York Times diceva: beh, conviene di sicuro avere amici, perché pensate che su Facebook ci sono 845 milioni di utenti, dati dichiarati dalla società in questa documentazione che è stata presentata alla SEC, e sicuramente questo conviene a chi oggi, soprattutto a chi oggi ha azioni che sono state ampiamente e in grande numero scambiate al mercato secondario. C'è anche la storia divertente di un pittore, di un artista, che ha dipinto una parete nella prima sede di Facebook, che è stato pagato non con soldi ma con azioni, probabilmente perché non c'erano tanti soldi e gli hanno detto: guarda, ti possiamo dare un po' di azioni. E forse qualche tempo fa non era molto contento. Oggi quelle azioni vengono valutate, se poi il programma che è stato stabilito dalle banche che si occupano del collocamento verrà mantenuto, quindi andrà secondo le previsioni, diciamo. Però il valore è grosso modo di 200 milioni di dollari. Insomma, per aver dipinto una parete mi sembra un buon investimento. Tra poco abbiamo alcune notizie della settimana in breve. Prima vi dico che l'Unione Europea, dopo che Google ha annunciato di razionalizzare tutta la normativa sulla privacy sui propri siti internet, allora l'Unione Europea ha chiesto a Google di sospendere il controverso piano sulla privacy in arrivo da marzo, e noi ce ne occuperemo proprio nei primi giorni di marzo. Il motore di ricerca però ha detto che non ha intenzione di fare alcun passo indietro. Vivian Reding, che è vicepresidente della Commissione Europea ed è responsabile di queste materie, perché era responsabile del settore giustizia che ha a che fare con la privacy, ha detto, mandando un segnale abbastanza chiaro a Facebook, ha detto: bisogna verificare se siano rispettate le norme sulla protezione dei dati ovunque in Europa. Vedremo come andrà a finire. Adesso abbiamo alcune notizie in breve. Digital News. Iniziamo dalla nazionale di rugby, che è in campo in questo momento. Ho messo questa come prima notizia perché è divertente, perché la nazionale di rugby italiana ha cominciato ad utilizzare un sistema GPS piazzato sulle spalle dei giocatori, inserito nelle maglie, grazie ad una speciale imbracatura che servirà per monitorare in tempo reale ogni movimento dei giocatori, ma soprattutto raccogliere dati come ad esempio chilometri percorsi, velocità, calorie bruciate in ogni singola giocata, eccetera eccetera. I dati serviranno sia all'allenatore che al preparatore atletico. Si inizia oggi con la prima partita delle Sei Nazioni a Parigi, sono già in campo, ma vi ricordo che i primi ad utilizzare un sistema di questo tipo sono stati gli australiani. La Ferrari ha registrato 5 milioni di pagine visitate durante il lancio sul web della nuova F2012, che a causa della neve caduta a Maranello è stata presentata solo su internet. Il maggiore numero di utenti si è collegato dall'Italia, seguita da Finlandia e Spagna. È stata cancellata dalla legge comunitaria italiana la contestata norma secondo la quale qualunque soggetto interessato avrebbe potuto chiedere al provider la rimozione su internet dei contenuti considerati da lui illeciti, senza quindi passare da un magistrato. La norma, che era stata introdotta in commissione alla Camera su iniziativa del leghista Gianni Fava, che sicuramente è diventato famoso, è stata cassata dall'aula di Montecitorio con l'approvazione, pensate, di 6 identici emendamenti emendamenti soppressivi che sono stati presentati dal PDL, dall'Italia dei Valori, da Future Libertà, da Alleanza per l'Italia, dall'API, dal PD e dall'UDC. Insomma, tutti si sono messi insieme per cancellare questa norma presentata da Fava. La Commissione europea ha aperto un'inchiesta contro la Samsung, sospettata di aver utilizzato i diritti su alcuni brevetti in modo indebito per falsare la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni, abusando anche di una posizione dominante. In particolare, scrive Bruxelles in una nota, Samsung non avrebbe rispettato gli impegni presi nel 1998 con l'Istituto europeo per gli standard nel settore delle telecomunicazioni. Parliamo ancora di brevetti perché c'è un'altra notizia che riguarda in questo caso Samsung. La corte di secondo grado di Düsseldorf ha dato ragione ancora una volta alla Apple nella battaglia legale in corso tra le due aziende in Germania. Samsung continuerà a non poter vendere il Galaxy Tab 10.1 e il Tab 8.9 che sono rivali dell'iPad. Secondo la corte i tablet incriminati sono troppo simili all'iPad e sfrutterebbero per questo indebitamente la popolarità del rivale. Apple non è però riuscita ad ottenere il divieto di vendita in tutta Europa e in ogni caso si tratta di una vittoria più che altro simbolica, visto che già da qualche mese Samsung commercializza in Germania una versione leggermente modificata del 10.1. I sorrisi della Apple sono stati però spenti subito da Motorola, perché sempre in Germania ha ottenuto una vittoria in tribunale su due brevetti. In un primo momento erano state addirittura sospese le vendite di alcuni prodotti della Apple, ma la Apple ha ottenuto a sua volta una sospensiva. Ultima notizia: a partire dal 22 febbraio arriverà anche in Italia la nuova console portatile di Sony, la PlayStation Vita, sarà disponibile inizialmente attraverso Vodafone. Come vi dicevo, ci occuperemo tra poco di commercio elettronico. Saluto Roberto Liscia, che è presidente di Netcom, il consorzio per il commercio elettronico in Italia. Benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie e benvenuto a tutti voi. Allora, diciamo subito una cosa, che noi parleremo tra poco di un settore che è in estrema salute, che è detto in un periodo in cui invece vediamo molti segni negativi, è una buona cosa. Quanto in salute? Straordinario, devo dire che gli ultimi dati ci hanno sorpreso, una crescita del 20% nel 2011, ma la cosa straordinaria è quello che è successo a Natale, addirittura con crescite che si avvicinano al 40%, perché ovviamente a Natale i regali si fanno, la gente deve comprare, vuole comprare, l'emozione è alta, però voglio dire le condizioni economiche sono quelle che sono e quindi il canale è stato il canale sul quale si sono concentrate le attenzioni di gran parte degli acquirenti italiani. Potremmo dire che quando parliamo di commercio elettronico parliamo di una bella fetta della rete internet, perché quando compriamo una canzone quello è commercio elettronico, quando compriamo un prodotto quello è commercio elettronico. Assolutamente sì. Prodotti. Servizi digitali, contenuti, streaming, audio, video e prodotti. L'Italia è nata soprattutto sui servizi, ultimamente c'è stata una forte crescita anche sui prodotti, che è la sorpresa di quest'anno. Dunque, per parlare di questo vi invito a chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24, oppure le altre modalità, la nostra email 2024@radio24.it, gli sms 349 238 6666, o anche la nostra pagina Facebook per i vostri commenti. Tra poco avremo altri due ospiti che scopriremo insieme dopo le notizie di GR24. 2024. 16 e 8 minuti, inizia la seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24, potete anche inviarci un sms al 349 238 6666 o, se siete più moderni, volete utilizzare l'email oppure anche Facebook, cercate la nostra pagina, ci sono già alcune domande degli ascoltatori su Facebook, ma sapete che io preferisco sempre il nostro numero verde, il telefono, per sentire la vostra voce. Oggi Pietro Lacorte si occupa della parte tecnica. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile poi attraverso la piattaforma podcast, quindi potrete riascoltarla anche scaricando il file MP3 della nostra trasmissione. Abbiamo già conosciuto poco fa l'ingegner Liscia. Roberto Liscia è il presidente di Netcom, che è l'associazione che raggruppa i principali player del commercio elettronico italiano, giusto Liscia? Assolutamente sì, raccoglie tutti coloro che si occupano di commercio, sia gli operatori delle vendite ma anche gli operatori che fanno attività di marketing digitale, gli operatori che si occupano di pagamento da PayPal a Cartassì, piuttosto che gli operatori che si occupano di tutti quelli che sono le tecnologie di logistica, di consegna e le tecnologie di informatica che consentono poi di sviluppare le piattaforme che servono per gestire i prodotti e poi per veicolarli in maniera digitale sul web. Alessandro Santamaria è country manager, quindi l'amministratore delegato italiano, traducendo, di Glamu Italia, giusto? Sì, esatto, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. E con lui parleremo anche del cosiddetto, adesso io uso un termine che usano i tecnici, poi lo spieghiamo, del couponing, cioè di che cosa stiamo parlando? Ho detto in sintesi, poi lo spieghiamo meglio. In sintesi è un servizio di commercio elettronico dove vendiamo sconti e servizi fortemente vantaggiosi per i nostri utenti. Io, Liscia, ho scritto prima di Natale, visto che tu facevi riferimento alle vendite che sono state un boom durante le settimane precedenti al Natale per l'e-commerce italiano. Prima di Natale volevo comprare un po' di cioccolatini per fare qualche pacchetto da regalare ad amici, parenti, eccetera, eccetera. Ho scritto alla Caffarel, che è un grande nome, e volevo comprare proprio dei gianduiotti della Caffarel, e anche alla Maiani, perché io ricordo sempre con piacere i famosi Fiat e i cioccolatini. Ho scritto: dove posso trovare online i vostri prodotti? E loro mi hanno gentilmente risposto al servizio consumatori, anche in modo molto veloce, dicendo: no, online non li trovi, se vuoi ti diciamo dov'è il rivenditore più vicino. E hanno perso un cliente. Allora, prima domanda, giusto per entrare già in questa chiacchierata di oggi: le vendite online, a mio parere, però chiedo qua, non dovrebbero cannibalizzare le vendite tradizionali? Perché c'è così tanta resistenza? Ma quello che tu tocchi è un argomento centrale. In Italia finora coloro che vendevano prodotti hanno avuto paura di disturbare i propri canali di vendita tradizionale, sia nei prodotti tradizionali ma anche nei servizi, per esempio nelle assicurazioni. Quindi l'Italia è rimasta al palo per molti anni, adesso la situazione è un po' cambiata. Ma l'argomento che tu tocchi del non trovare i prodotti sul web si sposa con due cifre esemplificative della situazione. L'Italia è il paese che ha meno imprese rispetto alla media europea che vendono i propri prodotti online. C'è un dato credo stupefacente: la media europea è il 15% delle imprese vendono online i propri prodotti, i paesi più evoluti arrivano al 25-30% delle imprese, in Italia solo il 5% delle imprese. Il secondo dato significativo è che spesso gli imprenditori dicono: in Italia non ci sono compratori. Beh, c'è un dato stupefacente del nostro indice che facciamo mensilmente: ormai questo mese siamo arrivati a 10.000 compratori italiani che comprano sul web. Ma il dato ancora più stupefacente: 10 milioni, assolutamente. No, ma il dato più stupefacente è che questi 10 milioni comprano più merci all'estero che di quanto noi riusciamo a vendere le nostre merci all'estero. Quindi in realtà quello che manca è un'offerta, e quindi mancano i cioccolatini che tu ricercavi. Probabilmente ci sono poi di altri marchi, ma io volevo proprio quelli, quindi sono rimasto a bocca asciutta. E poi non ho comprato i cioccolatini, tra l'altro. Volevo capire qual è la percentuale di venduto, quindi tra tutte le merci vendute, quanta percentuale viene venduta su internet rispetto al totale? Guarda, in Italia la cifra è ancora piccola, siamo sotto l'1%, siamo attorno all'1%. Il settore è, che ancora molto sottosviluppato è quello della grande distribuzione alimentare, dove siamo addirittura vicino allo 0,7%. In Europa siamo ormai arrivati in certi paesi al 3, 4, 5%. Persino la Cina ci batte in termini di quanti cinesi e qual è la penetrazione degli acquisti online rispetto agli acquisti nei canali tradizionali. Pensate che in Cina in questo momento ci sono 170 milioni di cinesi che comprano online e il 2% del retail è comprato online e il fatturato ovviamente dell'online è 10 volte quello italiano. Quindi in realtà noi siamo rimasti indietro per cultura delle imprese, per conoscenza delle tecnologie, ma le cose stanno cambiando. A proposito di conoscenza delle tecnologie, un fattore interessante del grande mondo del commercio elettronico è che oramai le tecnologie sono così disponibili che se io sono un piccolo negozio e faccio, certo, se vendo pane, diciamo forse il commercio elettronico non è il mio mercato di riferimento, però se faccio prodotti particolari, anche se sono molto piccolo, oramai trovo disponibile online delle offerte chiavi in mano che mi fanno vendere su internet, giusto? Assolutamente sì. Se qualche anno fa, quando il commercio elettronico era nato, 15 anni fa, l'elemento chiave era la tecnologia, il governo della tecnologia, oggi la tecnologia, lasciatemi dire, si è banalizzata e quindi l'imprenditore deve pensare non tanto alla tecnologia, ma deve pensare al prodotto, al servizio e al cliente e poi deve decidere come soddisfare queste condizioni in maniera ottimale, prodotto, servizio e cliente, e quali sono le infrastrutture, i partner ed eventualmente le società esterne col quale fare un affiancamento per sviluppare questa nuova canalità, che può essere fatta in modi diversi: utilizzare una terza parte su cui creare un carrello virtuale, utilizzare un canale di couponing che permette di vendere il prodotto per i piccoli imprenditori da domani mattina senza fare nessun investimento tecnologico, fino a decidere, se si è una società medio-grande, di utilizzare un progetto dove è tutto basato su quello che oggi viene chiamato il cloud computing, l'outsourcing, cioè mettere tutte le infrastrutture tecnologiche di software su società esterne, su calcolatori esterni e di fatto gestire questa grande nuvola di servizi. Però il tema vero è definire che tipo di servizio si vogliono mettere in atto per servire meglio il cliente. Poi scopriremo che cosa si vende di più online, perché un piccolo esercente potrebbe dire: ma io cosa posso vendere? Il mio settore è un settore che funziona online? Ne riparliamo tra un minuto. 2024. Stiamo parlando di commercio elettronico oggi a 2024. Roberto Liscia, che cosa si vende o che cosa si acquista di più online? Cioè, quali sono i prodotti e i servizi che vanno per la maggiore? Ma l'Italia negli ultimi anni ha avuto all'inizio una crescita vorticosa nelle vendite dei servizi, tant'è che i servizi hanno rappresentato il 70%, per servizi intendo dal turismo ai viaggi alla biglietteria fino alle assicurazioni, perché di fatto quella era la parte più facile, non c'era un problema di trasporti, non c'era un problema di logistica. Negli ultimi anni, piano piano, soprattutto nel 2011, ci si è resi conto che la ricerca del prodotto da parte dei consumatori stava aumentando online, tant'è che oggi ci sono 25 milioni di italiani che cercano i prodotti online per capirne, come hai fatto tu con i cioccolatini, qual era il prezzo e dove potevano essere acquistati. Quindi è esploso, direi, l'interesse a esistere sul digitale, perché il vero tema è che se non esisti sul digitale perdi una fetta della tua presenza, della tua visibilità e della tua raggiungibilità. Quindi nel 2011, diciamo 2010-2011, è cambiato un po' il mondo, come era capitato un po' negli altri paesi, e oggi online si vende un po' di tutto, quindi si vendono abbigliamento, elettronica, libri e quindi direi prodotti marchiati. E la sorpresa che c'è stata negli ultimi due anni è la crescita del 40% anno su anno dell'abbigliamento, del 18% dell'elettronica, del 10% dei libri. Cioè la cosa impressionante è che anche un prodotto che in Italia è sempre stato difficile, come sappiamo non è un paese di grandi lettori, è un settore dove la crescita e la vendita dei libri è stata una sorpresa per tutti gli operatori del settore. La cosa che mi stupisce spesso è l'abbigliamento. Come fa uno a comprare abbigliamento? Però io, anche a Radio 24, ci sono un sacco di persone che acquistano abbigliamento online e vedo anche dalla ricerca che voi avete pubblicato da poco, da questi numeri, che alla domanda cosa hai acquistato ultimamente, al di là dei biglietti per aereo, treno, eccetera, eccetera, un buon 10% dicono capi d'abbigliamento. Sì, che è sorprendente. È sorprendente, però questo è un fenomeno che sta avvenendo in tutta Europa, anche perché pochi sanno che chi compra online e il cliente che compra online è il cliente più protetto dalla legislazione europea. Se io compro un prodotto online, ho la certezza che se non lo voglio, il venditore è obbligato a rifondere il mio pagamento, a restituirmi la somma pagata. Tant'è che in Germania, per fare un esempio, gran parte dei consumatori comprano prodotti online di abbigliamento e il 50% viene restituito e rimandato al mittente. Con il meccanismo io considero casa mia come un negozio. Mi faccio mandare i capi delle varie misure. Poi me li provo. Me li provo, li scelgo e li rimando indietro. Incredibile però, Un'ultima domanda per questa prima parte, Alicia, poi vorrei chiedere ad Alessandro Santamaria come funziona questo nuovo sistema dei gruppi d'acquisto. Nuovo per alcuni no, ma per, forse guardando a tutto il mercato sì. Alicia, come faccio io però ad essere sicuro quando acquisto su internet? Perché se vado, allora mi possono fregare anche nel negozio tradizionale, però se non altro nel negozio tradizionale torno dentro o davanti a una persona fisica con la quale litigare. Online come si fa ad essere sicuri, cioè a proteggersi dalle fregature? Allora, ci sono grandi siti, che ne so, su eBay, che funziona con il sistema dei feedback. Se io vado da un venditore che vende su eBay, vedo che migliaia di persone hanno detto che quello è affidabile e già quello è un primo indizio. Ma in generale? L'unica cosa che posso dire è che dalla ricerca che facciamo ogni anno col Politecnico, i prodotti disconosciuti dall'acquirente all'atto dell'acquisto sono lo 0,12%, cioè un decimo di un punto percentuale. Quindi il fenomeno è praticamente in Italia inesistente, quindi non esiste come fenomeno. Detto questo, un minimo di cautela per non andare in un negozio che non esiste, come succede nel mondo fisico, lo raccomando comunque a tutti. Detto anche questo, c'è da dire che le frodi online, quello che una volta era la paura del fatto di mettere la propria carta di credito sul web, in realtà è molto più sicuro mettere i propri numeri di carta di credito sul web per acquistare che dare la propria carta di credito al benzinaio. Quindi anche qui il fenomeno non esiste. C'è invece un grande pericolo online, è quello che si chiama il phishing, cioè il fatto che ci arrivi, e arriva a tutti voi probabilmente, tutti voi ascoltatori, una richiesta per avere i dati della propria carta di credito, del proprio conto postale o della propria carta SI, con dei meccanismi truffaldini del tipo: datemi i vostri dati perché così vi devo restituire una somma. Ecco, bisogna fare molta attenzione a questi fenomeni, che sono delle truffe fatte da criminalità organizzata, spesso internazionale. Sì, a tal proposito dico anche che proprio questa settimana i grandi gruppi della rete si sono accordati per trovare un sistema per combattere questo fenomeno, che effettivamente è organizzato dalla criminalità internazionale. Devo anche dire che nella stragrande maggioranza dei casi, se uno è un po' sveglio, capisce che si tratta di un messaggio truffaldino, però visto che continuano, vorrà dire che c'è qualcuno che ci casca ogni tanto. Dunque, Alessandro Santamaria, come vi dicevo all'inizio, è country manager di Glamoo Italia. Innanzitutto voi cosa fate come Glamoo? Allora, Glamoo è una delle società, uno dei gruppi di couponing di cui abbiamo anticipato prima. È una società inglese, operiamo in due mercati, un mercato italiano e un mercato inglese. In questo momento abbiamo un grosso focus sul mercato italiano, anche grazie a una grossa joint venture commerciale con il gruppo Seat Pagine Gialle, quindi di fatto siamo un unico operatore. Che cosa fa Glamoo? È una società di e-commerce che sostanzialmente lavora nel mondo del couponing. Che cosa sono i couponing? Cosa sono i couponing? Il couponing lo definirei una nuova forma di pubblicità abbinata al mondo di e-commerce. Le società di couponing sono un punto d'incontro tra la domanda e l'offerta e sono sostanzialmente delle agevolatori anche per i piccoli operatori. Quindi nel caso che facevamo prima, il panettiere di Milano, oggi attraverso queste piattaforme di couponing può conquistare una buona parte di clientela offrendo dei servizi direttamente scontati, quindi il fattore basilare è forti sconti, lo sconto, in questo momento tutto è basato sullo sconto e il vantaggio poi finale per il consumatore, quindi offrendo dei forti sconti direttamente ai nostri clienti. Quindi come funziona il modello? Una società, un gruppo a cui ci si registra, si sceglie la città di appartenenza e quindi ogni giorno si ricevono tutta una serie di sconti localizzati proprio nella città di appartenenza. Quindi si vanno dagli sconti, diciamo, che noi definiamo nel lifestyle, quindi la vita quotidiana, dallo sconto al ristorante, allo sconto al panettiere, allo sconto dal parrucchiere, eccetera, eccetera, lo sconto, diciamo, anche nel fenomeno del settore beauty farm, oppure nel settore delle health and beauty, eccetera, eccetera, fino ad arrivare allo sconto dei teatri, allo sconto nei cinema e quant'altro. Quindi, diciamo, allora, per il consumatore finale è abbastanza evidente il vantaggio, cioè io vado al ristorante con lo sconto. Esatto. Per il ristorante, in questo caso, comunque in ogni caso l'esercente che si rivolge a voi per diffondere su tutti gli iscritti che voi avete queste offerte, qual è il vantaggio? Il vantaggio che esattamente con un solo, diciamo, accordo con una società di couponing ha una visibilità molto ampia, perché stiamo parlando, in questo momento il fenomeno stimiamo che in Italia abbia già colpito circa 7 milioni di consumatori sostanzialmente, quindi con N società. E voi quanti iscritti avete? Noi superiamo 1,5 milioni di iscritti. Quindi io, se faccio un accordo con voi, mi faccio vedere a una parte di questo. Sì, cioè dipende, diciamo, dalla città in cui, diciamo, l'esercente è presente. Però sostanzialmente qual è il valore dell'esercente? Che ha una forma di pubblicità immediata, sostanzialmente tutto lo sconto che eroga lo dà direttamente ai consumatori e dal momento in cui viene applicata questo tipo di vendita, dal giorno dopo può avere una nuova fetta di consumatori, di clienti nuovi che arrivano direttamente nel suo negozio a comprare i propri prodotti. E voi cosa ci guadagnate? Noi ci guadagniamo una percentuale sui transati che generiamo direttamente per i singoli esercenti. Quindi se io sono al ristorante, la cena da 100 euro la faccio pagare 50 euro, il consumatore paga 50 euro e voi incassate una percentuale sui 50 euro? No, noi incassiamo una percentuale sui 50 euro, che è una percentuale variabile in base a diciamo il settore merceologico a cui ci rivolgiamo. E tutti, visto che questa cosa non la fate solo voi, tutti i siti di couponing oppure gruppi d'acquisto funzionano allo stesso modo? Esattamente. In tutto il mondo? Sì. Questo è un fenomeno che è nato dove? Negli Stati Uniti? È nato negli Stati Uniti, c'è stato una grossa, diciamo, un grosso boost in Europa, partendo poi dalla Germania, e poi si è, diciamo, esteso poi in tutta l'Europa. Il boost è una spinta, esatto. Un'esplosione. Liscia, potremmo dire che questo è il nuovo fenomeno del commercio elettronico, anche se è anche una forma di pubblicità, non è solo commercio elettronico. È sicuramente un nuovo canale, è sicuramente una nuova grande opportunità, in particolare per la realtà italiana, che è fatta di servizi molto locali, di servizi molto radicati sul territorio, di piccole imprese artigiane che spesso hanno, come dicevi tu, difficoltà ad accedere al canale, alla tecnologia. Quindi il couponing, nato in Italia 2 anni fa, ha raggiunto un fatturato che si stima intorno ai 250 milioni di euro in 2 anni, dando occupazione peraltro a 1 migliaio di persone, quindi è un settore industriale molto rilevante nell'economia italiana, e lo dico perché è un fenomeno che in qualche misura si sta mano a mano espandendo, dando possibilità alle piccole imprese, dal pasticcere siciliano fino alla, diciamo, al centro di salute emiliano, per poter allargare il proprio mercato. E la cosa interessante, come diceva Santa Maria, non è soltanto un canale di vendita, è una cosa che sta tra il canale di vendita e il canale di promozione, e il canale per creare un nuovo mercato, per allargare il mercato. E quando in qualche misura raggiunge un giusto equilibrio tra l'offerta e la domanda, in realtà dà soddisfazione all'offerente, quindi agli esercenti, perché gli allarga il bacino di clienti, e dà soddisfazione ai clienti perché possono accedere a dei servizi e scoprire nuove offerte, per di più scontate. Quindi in realtà è nato in America con il meccanismo che forse qualcuno ricorderà nei film, del pacchetto di couponing che ti arrivavano nella villetta sotto la soglia di casa la mattina con centinaia di couponing. Poi piano piano ha preso una forma virtuale digitale e devo dire che sta dando grande soddisfazione agli operatori del settore. Bene, saluto Lucio Carli, che è consigliere di amministrazione dell'Olio Carli. Benvenuto Carli. Buongiorno a tutti. Noi l'abbiamo chiamata perché in qualche modo il commercio elettronico vi ha un po' cambiato il business. In che modo? Ma la nostra è una storia di 100 anni perché appunto dal 1911 abbiamo iniziato la nostra attività di vendita diretta alle famiglie italiane. Nel 96, ai primi albori diciamo dell'attività su internet, abbiamo messo la nostra vetrina ed è stato un piacere vedere subito come i nostri clienti hanno trovato questo nuovo canale, una via ideale per piazzare i loro ordini sia sulla parte diciamo alimentare che sulla parte cosmetica, appunto il sito mediterranea.it e oliocarli.it. E oggi appunto abbiamo incrementato, abbiamo appunto variato molto anche il nostro modo di proporci al cliente, inventandoci sempre più attività, quindi non solo vendita ma dare sempre più servizi online. Avevamo già un servizio di corrispondenza che consentiva ai nostri clienti di scriverci e noi rispondevamo da sempre. Abbiamo veramente tante tipologie, tante storie da raccontare di clienti che hanno scambiato corrispondenza con noi, ma sicuramente internet è il luogo dove veramente è facilissimo riuscire a dialogare, a dare appunto consigli, ricette. Noi abbiamo tutto un mondo della cucina online, di consigli anche nell'area poi del benessere, del beauty, proprio per dare al consumatore il modo di vivere a 360 gradi l'esperienza con i nostri prodotti. Carli, fatto 100 il numero di vostri clienti, quanti acquistano tramite il sito internet? Allora, in totale oggi siamo un 13%, per cui diciamo che la volontà degli italiani di andare online c'è, ma è ancora da incrementare, quindi nonostante i nostri appunto 16 anni di lavoro online, ancora tanta strada la dobbiamo percorrere, però vediamo che il cliente che poi va sull'online ha normalmente uno scontrino medio più elevato, ha una customer retention rate molto più elevato, quindi sta con noi più tempo, fa più acquisti durante l'anno e ovviamente poi dei costi di gestione anche totalmente diversi. E noi ricordiamo che offriamo la possibilità al cliente di pagare direttamente con contrassegno al momento della consegna, quindi la carta di credito che molte volte spaventa, ma come diceva Roberto Liscia giustamente prima, una paura remota che deve essere da tutti noi, deve essere appunto superata, perché veramente non esiste. Io racconto sempre un aneddoto, che noi abbiamo avuto una cliente che un giorno ha preso una sua bella busta, ha mandato questa busta all'azienda con dentro una bella lettera che diceva voglio pagare carta di credito, e dentro abbiamo trovato la sua carta di credito, quindi abbiamo detto fermi tutti, l'abbiamo chiamata, gliel'abbiamo rimandata indietro, quindi bello. Molte volte il cliente non sa neanche lui bene le paure che dovrebbe avere online, anzi è molto più sereno di quanto poi media o tutti quanti vogliono fargli passare questa esperienza online. Io trovo che acquistare online sia un'esperienza favolosa, perché lo puoi fare a qualsiasi ora, sceglierti i prodotti che più ti appagano e poi riceverli a casa, il diritto di recesso, quindi puoi tranquillamente dopo una settimana dare ancora indietro la merce. La garanzia Carli è quella che la puoi dare anche dopo ben di più di una settimana, anche abbiamo clienti che ci mandano magari l'olio che ritrovano in cantina dopo mesi o anni e decidiamo sempre di riprenderlo, cambiarglielo quando questo dovesse mai accadere, per la serietà dell'azienda. Quindi quando uno poi ha una storia alle spalle come noi, è ovvio che il cliente ha facilità a utilizzare uno strumento come questo. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, sono le 16:33, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci per parlare di commercio elettronico. Ci sono tanti commenti anche sulla nostra pagina Facebook, gente che è entusiasta dell'online, gente che è sospettosa e non è d'accordo col commercio elettronico, ma insomma stiamo parlando di una cosa che, come abbiamo detto, non sta cannibalizzando il resto del commercio tradizionale. Ci sentiamo tra qualche minuto. 2024. Le 16:36, questa è 2024, oggi dedicata al commercio elettronico. I dati di Netcom, non ancora pubblicati, che verranno pubblicati a breve, tra un paio di giorni, ci dicono che questo grande settore del couponing, poi magari lo ribadiamo che cosa significa, cioè acquisti fatti grazie a coupon, che è un nome che ormai è entrato nel gergo anche italiano, che ci permettono di avere uno sconto su merce, su servizi di vario genere. Allora, questi siti internet danno lavoro in Italia a 1000 persone, che sono ancora poche, lì stiamo parlando di un settore ancora in crescita. È un settore che è nato praticamente 2 anni fa e se pensiamo che in 2 anni questo settore ha già dato con 10 imprese lavoro a 1.000 persone, 1.000 persone qualificate, questo lo ritengo un fatto importante. Non ha solo dato lavoro a 1.000 persone, ma ha creato anche uno sbocco al mercato da parte di microimprese che del digitale non sapevano e non sanno nulla, dalle vendite di prodotti artigianali fino alla vendita di servizi, che ovviamente non avevano nessuna possibilità di vendere online. Quindi questo settore è un settore che sta crescendo e, come dicevo prima, si sta sposando molto con quella che è la cultura della piccola impresa locale, che ha bisogno oggi, soprattutto in un'economia sempre più stretta, sempre più difficile, di trovare nuovi sbocchi di clienti al di fuori dei propri clienti tradizionali. Quindi il settore è un settore nuovo, che si sposa con bene, tant'è che in Italia è cresciuto più rapidamente che in altri paesi, anche se è cresciuto in tutta Europa, e sono ormai 10 le imprese che operano nel couponing, dove il couponing, come dicevamo, è proprio questa nuova forma in cui un venditore, un esercente, un artigiano affida la possibilità di vendere alcuni suoi prodotti e servizi a una terza parte, la quale la promuove alle sue liste di clienti. Queste liste di clienti hanno la possibilità per un certo numero di giorni o di ore di acquistare questi prodotti scontati fino al 50%. Quindi è una forma che in qualche misura è una forma di promozione ed è una forma di vendita che allarga ovviamente il mercato potenziale di questi piccoli operatori. Allora, di testimonianze di persone che negli ultimi anni, anche molto piccoli, hanno cominciato a fare commercio elettronico con grande soddisfazione, ne potremmo raccontare tantissime, però visto che la trasmissione è aperta anche agli ascoltatori, cito il caso di Andrea che ci scrive da Reggio Emilia un SMS, dice: abbiamo un sito di commercio elettronico di prodotti enogastronomici che è surbeer.it, dice: le transazioni online sono in crescita da 3 anni, ma il sito rimane ancora più importante per generare contatti che poi si concretizzano anche offline. Perché è vero che c'è questo fenomeno, Liscia, di persone che si informano online, quindi su internet, e poi continuano a comprare nel negozio fisico, ma vale anche l'inverso, cioè che uno va nel negozio, vede delle cose, poi... Posso addirittura darti i dati di una ricerca che abbiamo fatto 2 mesi fa, che è una ricerca sulla multicanalità, e vi do questa notizia: su 25 milioni di italiani che vanno su internet, il 55% di costoro si informa online, quindi il 55% di 25 milioni farà, penso, all'incirca 14 milioni, non ho fatto il calcolo rapidamente esatto, ma più o meno siamo lì. Stiamo parlando di circa 14 milioni di italiani che si informano online e poi non necessariamente fanno l'acquisto online, in parte lo fanno offline. Pensate a coloro che vanno alla Feltrinelli e poi comprano su Amazon, o a coloro che vanno sul sito di Amazon e poi comprano la Feltrinelli. Quindi, diciamo, i due canali sono sempre di più interrelati. La cosa sorprendente è che molti, il 45%, si informano offline, cioè vanno nel negozio, ma poi comprano online. Quindi in realtà i due canali sono sempre di più integrati, e chi ha successo nel futuro sarà l'azienda che saprà coniugare bene questi due canali. Perché c'è un dato che emerge in maniera rilevante: se non sei online, perdi delle vendite anche offline, e se non capisci che la tua visibilità che è venuta meno perché non ci sei, in realtà ti fa perdere un potenziale di crescita. C'è un dato interessante che fa vedere che chi ha investito sulla sua visibilità online, che vuol dire essere presenti con un canale di commercio elettronico, che non significa soltanto vendere col canale online, ha ampliato le sue vendite tra il 4 e il 5% e ha ampliato la sua penetrazione all'estero, che è importante. Liscia, tu sei fin troppo diplomatico, perché io direi che se uno non è online, non esiste proprio. Poi potremo continuare. Volevo chiedere a Santa Maria, nella prima parte di 2024 abbiamo detto che ci sono buone speranze che la rete internet, l'utilizzo della rete internet in Italia si diffonda grazie all'uso degli smartphone. Allora, io sono un grande sostenitore del computer collegato col cavo, perché hai un'esperienza totale, globale, però sicuramente queste nuove modalità, anche grazie allo smartphone, sono utili e interessanti. Poi insomma, tutti noi quando siamo in giro utilizziamo lo smartphone, tutti, molti, perché non bisogna esagerare. Per quanto riguarda le vendite, Ha un senso vendere su mobile, su smartphone? Direi di sì, soprattutto... Io non so se comprerei... Allora, ho comprato biglietti, ecco, biglietti del treno, certo. Sicuramente. Allora, direi che in questo momento il commercio elettronico sugli smartphone è ancora in una fase embrionale, ma sta crescendo molto. Glamour è una delle società che sta investendo moltissimo a livello europeo su questo canale, perché crediamo molto nell'evoluzione futura. Glamour sarà fortemente una società che poi virerà molto sulla parte degli smartphone, quindi un po' l'idea è anche quella di spostare gli acquisti geolocalizzati, quindi sostanzialmente seguire l'utente, dare la possibilità all'utente, aprendo il suo smartphone, di essere localizzato e vedere esattamente tutte le occasioni di acquisto che potrebbe avere intorno a sé. Quindi ancora in questa prima fase funziona già? Funziona già, in questo momento c'è un'app di Glamour scaricabile da iTunes, Apple Store, e che permette già all'utente di, diciamo, nelle principali città italiane, che la MU è presente in circa 110 città italiane, di vedere esattamente quanti sconti e tante occasioni di sconto che ha intorno a sé. Un po' l'idea è quella di cambiare il comportamento d'acquisto dell'utente sostanzialmente attraverso, diciamo, l'utilizzo dello smartphone, che poi è anche un po' ludico, no? Perché sostanzialmente quando si usano questi apparecchi una parte di divertimento c'è anche, ma di scegliere esattamente dove andare a cena, per esempio questa sera con lo sconto dell'X%, con un forte sconto direttamente acquistabile via smartphone. Quindi pago con la carta di credito su smartphone? In questo momento posso pagare con la carta di credito, posso pagare con PayPal, e in un futuro si potrà pagare anche con conto telefonico. Quindi non posso andare al ristorante con lo smartphone in mano? Assolutamente sì. Posso pagare direttamente al ristorante? No, il pagamento avviene attraverso lo smartphone, sui sistemi di Glamour. Il vantaggio è che arrivo nel punto vendita, nel ristorante piuttosto che nel negozio, e anziché mostrare il couponing cartaceo, quindi sostanzialmente la stampa di un coupon cartaceo, mostro lo smartphone che ha un codice, che è un coupon digitale, e quindi sostanzialmente ottengo lo sconto direttamente. Ecco, l'evoluzione sarà anche quello, soprattutto nel mondo dei grandi brand della moda, di acquistare lo sconto, quindi avere uno sconto utilizzabile nei negozi che vendono prodotti o comunque shopping, e passare lo smartphone direttamente sul lettore della cassa, quindi a barcode, e avere direttamente lo sconto. Quindi questo è il futuro, ma che è veramente dietro l'angolo. Molto vicino. Sentiamo Cesare che ci telefona da Piacenza. Buongiorno Cesare, vi ricordo il nostro numero verde 800 24 0024. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Certo che la sentiamo. No, mi fa piacere intervenire perché noi abbiamo una piccola azienda che lavora su questi canali, quindi noi abbiamo cominciato nel 2009, allora ero un giovane imprenditore, adesso sono uscito da questa categoria, e abbiamo iniziato a importare e distribuire prodotti per animali, decidendo di dare la possibilità al cliente di trovare i nostri prodotti ovunque e quindi di porci anche su internet. Molte volte anche contro un po' la felicità di quelli che sono i mezzi classici, quindi dei negozi che lavorano con noi. E abbiamo scelto una strada positiva perché oggi lavoriamo molto bene, la nostra azienda, grazie a internet e grazie anche alla possibilità di essere trovati ovunque, sta facendo un buon fatturato anche in un periodo che invece per altre aziende è un po' meno, diciamo, classiche, che vivono in un posto fisico, è meno felice. Siamo entrati all'estero anche noi, quindi lavoriamo con la Germania, la Svizzera, la Francia, la Repubblica. Insomma, una buona esperienza. Sì, una buona esperienza. Positivo. E lavoriamo anche su iPhone con due applicazioni. Sì, quindi, sì, approfitto. Lei aveva anche una domanda, Cesare, oppure no? Sì, l'unica cosa secondo me potrebbe essere molto importante, visto che molti paesi puntano sul commercio elettronico per spingere un'economia magari un po' ferma nell'economia normale e reale, che in Italia non abbiamo dei grandi incentivi. Per esempio, noi distribuiamo prodotti, quindi abbiamo anche una parte di logistica. Da quanto so, in Germania il governo dà degli ottimi incentivi su quello che è le spedizioni, che purtroppo per un negozio che vende prodotti su internet sono una grande parte delle spese, perché noi spediamo. E quindi... Chiarissimo. Adesso non è forse un periodo molto buono per chiedere incentivi, però questa è una domanda che facciamo a liscia. Cesare, noi la ringraziamo per averci chiamato, è interessante quello che ci ha riferito. Volevo però dire, prima della viabilità, che sento ancora oggi troppo spesso parlare solo di iPhone, di iOS. Allora ricordiamo che buona parte del mercato ormai è fatta da Android, quindi bisognerebbe cominciare anche a forse puntare prima su Android che su iPhone, per motivi proprio di numero di... Infatti Liscia ci fa vedere appunto che lui è Android, ma proprio per motivi oggettivi, insomma, di mercato. È vero che l'utente iPhone forse è un po' più smart all'inizio, ma non lo so. Poi chiediamo magari a Santa Maria. La viabilità, ci risentiamo tra poco. 2024. Sono le 16:49 minuti. Allora, Liscia, sicuramente anche il commercio elettronico parla con le istituzioni, deve parlare con le istituzioni anche a livello europeo, che è importante, molte cose vengono decise a livello europeo perché ci sono effettivamente delle discriminazioni. Ne cito una che riguarda la carta, cioè il mondo del libro tradizionale è agevolato fiscalmente rispetto all'ebook, quindi ad esempio da questo punto di vista qualche cosa dovrà essere fatto, o si alza l'una o si abbassa l'altra, eccetera, però immagino che altre distorsioni ci siano. Ma più che distorsioni c'è disattenzione rispetto a questo settore. Quello che a cui facevi riferimento, che qualsiasi prodotto editoriale venduto su cartaceo ha un'IVA al 21%, al 4%, quando è venduta in digitale al 4%. Questa distorsione è tipica del mondo editoriale e permane. Ma il vero tema è che la scarsa sensibilità da parte delle istituzioni finora, adesso abbiamo prontato un documento insieme a Confindustria Digitale per il Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico, in cui c'è Corrado Passera, che credo sia un ministro attento a questo tema del digitale, forse uno dei primi ministri che ha una grande sensibilità all'argomento. Credo che il tema vero sia che, siccome le aziende oggi esportano pochissimo, non solo ci sono poche aziende in Italia, ma le aziende che sono in Italia sono piccole, non hanno capacità di investimento in questi strumenti e per di più esportano poco. Quindi un dato che dicevo prima è che oggi si importano più merci sul digitale di quanto se ne esportano, e quindi abbiamo un saldo della bilancia commerciale sul canale digitale negativa, quando l'Italia sappiamo essere un paese esportatore netto. Allora, una cosa che stiamo chiedendo al governo di trovare delle forme di incentivazione, soprattutto per gli investimenti in tecnologia, per gli investimenti in innovazione, per l'investimento nella trasformazione digitale delle imprese, ma soprattutto per quelle imprese che possono esportare il prodotto italiano e che non lo fanno, e quindi un'agevolazione per esempio sull'IVA all'esportazione, che non farebbe che far beneficiare anche il Ministero del Tesoro e le entrate italiane, perché ovviamente una riduzione dell'IVA, se si traduce in un allargamento del fatturato, porta ovviamente ad un aumento delle entrate. Sì. Questi sono temi che naturalmente stiamo dibattendo in questa fase. Sì, uno dei rischi è anche che i player, tecnologicamente parlando, cioè le grandi piattaforme, siano straniere, come mi sembra che stia accadendo, giusto? Assolutamente sì, non solo le grandi piattaforme sono straniere, ma qui non ci sarebbe nulla di male se le imprese italiane utilizzassero le piattaforme straniere per esportare i propri prodotti all'estero. Sentiamo Andrea da Reggio Emilia, poi Lucio Carli, al quale vorrei chiedere se loro esportano e qual è la loro esperienza. Andrea da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti. Io volevo solamente riferire la mia esperienza con il couponing. Io ho aderito a 4-5 iniziative che sono state tutte quante molto positive, perché hanno permesso a me di utilizzare questi strumenti a un prezzo più basso, sto parlando di salute, benessere e ristorazione, e dall'altro, parlando anche con gli esercenti, loro erano molto contenti perché riuscivano ad allargare il loro bacino di clientela potenziale o reale che non avrebbero mai toccato se non con questi strumenti. Esatto, quindi, si sono fatti conoscere, quindi anche un modo per farsi pubblicità. Esatto. A un prezzo molto accessibile. Sì. Lucio Carli, voi esportate? Sì, esportiamo, ovviamente i paesi principali sono Germania, Francia, Svizzera, Austria, Inghilterra, poi Stati Uniti ovviamente, dove abbiamo un'altra piattaforma, però esportiamo in Europa direttamente da Imperia, quindi la merce parte direttamente da qua, e l'online sta appunto funzionando molto bene, perché circa il 30% degli ordini arrivano appunto dal canale online. E quindi è sicuramente uno strumento che ha consentito all'azienda di fare un passo in questi ultimi anni molto, molto importante di crescita, e sicuramente il Made in Italy sta funzionando molto bene in questi paesi, che sono paesi, per ricordiamolo, dove la tradizione dell'acquisto a distanza è molto più radicata di quanto non lo sia in Italia, per cui Quindi lei è d'accordo che se molte delle aziende italiane scoprissero il canale online, ne beneficerebbe anche l'export? Ma io penso, come chiunque di noi, debba fare un acquisto, anche non so, di semplici piastrelle o di qualsiasi cosa per la casa, mobili, luci, lampade eccetera, la prima cosa che fa va online. Se trova delle cose interessanti, magari con siti certificati eccetera, una prova di un acquisto online la fa sicuro. Se si trova bene, poi continua a farla. Per cui, se tutti quanti facciamo un sistema, il Ministero italiano ci dessero un po' di aiuto, di appoggio, aiutassero Netcom a fare delle scelte di crescita tutti assieme, sicuramente il futuro del Made in Italy al mondo potrebbe essere migliore di quello che già non è, ma sicuramente sì. Se non ci aiutiamo un po' tutti in questi momenti molto difficili. Liscia, mi raccomando però, attenzione, perché che la richiesta non venga accettata fin troppo, perché poi i ministeri meno mani in questi settori mettono, meglio è, che non facciano poi dei disastri. Sicuramente bisogna fare attenzione alla burocratizzazione delle iniziative, esatto. Ma il disegno di un'iniziativa collettiva che aiuti l'impresa italiana oggi è strettamente necessaria. Bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Carli, sapevo che lei è andato a vedere una partita di pallanuoto, se non sbaglio. Sì. Avete vinto? Abbiamo vinto, poi siamo fortunati perché abbiamo tre ragazze della nostra squadra che sono campioni europee, quindi con la medaglia al collo sono entrate in vasca, è stata una vittoria sulla vittoria. Veramente. Bene, con questa buona notizia io la saluto, la ringrazio, buon lavoro, a presto. Grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie anche a Roberto Liscia per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi. E ad Alessandro Santamaria, buon lavoro. A presto, grazie. Io ringrazio i nostri ascoltatori, come sempre, per la vostra attenzione. Tra poco questa puntata sarà online sul nostro sito internet. Grazie a Stefania Tagliaferri che ci ha aiutato in regia, anche Pietro Lacorte, grazie anche ad Anita Panizza. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci possiamo trovare anche su Facebook. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana. Parleremo di sicurezza informatica, ma in generale di sicurezza su internet. 2024. 2024. 2024. 2024.